momento sono abbastanza contento. Poi che la squadra debba migliorare, ma non deve migliorare solo l'aspetto dei gol, perché è chiaro che non si possono vincere tutte le partite per 1-0. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tra quello che era il cammino della Juventus lo scorso anno e quello che è l'inizio di questa stagione, e in che cosa manca la Juventus, guardando anche la classifica, perché poi alla fine parla. Secondo lei in cosa manca? Scusi, le faccio no, una domanda. No, io lo chiedo a lei, cosa... io faccio il mio ruolo. Capito, basta vedere la classifica, no? Ma scusi, abbia pazienza, le ho spiegato ora, basta vedere la classifica. Abbiamo 5 punti. In questa realtà facciamo un tempo a partita che sicuramente non va bene. Primo tempo non è che abbiamo fatto male, ma non abbiamo fatto bene. Genova ha fatto la partita che voleva, noi ci è mancata la cattiveria del secondo tempo, abbiamo perso troppi errori, troppi duelli individuali, giocando loro a uomo non ti puoi aspettare altro. Social, Eleonora Boy. Buonasera, America Ulgiati, tifosa nerazzurra, le chiede perché ci sono stati questi continui cambi di modulo a partita in corso. Che domanda è questa qua? Eravamo in 10, perdevamo 3-0 e... Ovviamente sa che le domande social ovviamente raccolgono un po' tutto quello che gli utenti. No, ma dico, ma eravamo 3-0, cioè scegliete una domanda un po' più intelligente la prossima volta, dico eravamo 3-0. Beh, nervi un po' scoperti, comprensibile, da parte dei ragazzi. Giorgio De Luca. Ciao ragazzi, buongiorno. Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, Giovanni Melchiori. Allora, Juventus, Milan e Inter, tutti a bagno, tutti a mollo nelle lacrime, giornata a modo suo storica. Non capitava che perdessero tutte e tre la stessa partita, nella stessa giornata, dal 94-95. Mica male, Esatto. Mancini che cade nel trappolone, cambia modulo anche lui, al di là del fatto che poi se la prende, scegliete domande più intelligenti, gli dice malissimo anche sul piano degli episodi. Resta il fatto che al 30esimo 11 contro 11 era 0-3, poi al 31esimo espulso Miranda, 0-3 con un uomo in meno. Allegri e Mihajlovic, già 3 sconfitte a testa, due squadre che per adesso una faccia non ce l'hanno. E a proposito di facce, ufficio faccia la Beppe Viola, ti ricorderai, certo. L'altra faccia del weekend è quella che ride, le faccine che ridono, Napoli e Lazio, Torino e naturalmente la magnifica Viola che Paolo Sosa ha infilato nell'occhiello di Firenze. Il campionato sembra più pazzo del Carnevale di Rio, posso dirti? È bellissimo, è un campionato bellissimo dove la Juve... Lo dico per citare l'esempio estremo, no? Dove la Juve, che adesso ha 5 punti, può ancora sognare, perché alla fine le distanze non sono così gigantesche, anche se chiaramente insomma le probabilità sono poche, sono pochissime. Però è un campionato divertente, Molto. È un campionato che smentisce spesso quello che è stato detto e scritto fino a qualche giorno prima. L'esempio più clamoroso è la Lazio, c'era Pioli 4 giorni fa che era sul patibolo. Pronto a essere ghigliottinato. I tifosi sul piede di guerra, ti ricordi, sì, Formello? Sì, dopo la sconfitta di Napoli, oggi la Lazio è a un passo dalla vetta della classifica. La Fiorentina, che dopo la sconfitta col Basilea sembrava in una fase di involuzione, ieri ha fatto una partita che pazzesco. Una roba leggendaria. Insomma, gli esempi sono tantissimi. Diciamo che per noi che siamo qui a godercelo questo campionato e che ci auguriamo di vedere una lotta aperta fino alla 38esima giornata, per ora è tutto molto divertente. Certamente. È tutto molto bello. È tutto molto bello. E c'è anche Enrico Chiesa che saluto subito. Ciao Enrico, buongiorno, grazie. Ciao a tutti. Enrico Chiesa che, come quanti ti ricorderai, gol mai fatto Pardo... a Fantacalcio, Enrico. Quanti gol mai fatto a Fantacalcio? Io ho cominciato a giocare a Fantacalcio nel 92. Io credo che tu abbia vinto almeno 2 scudetti. E perché non te lo sei pigliato? Scusa, ma non sul campo, dai, va bene. Perché non te lo pigliavi, scusa Chiesa? Pardo. Come non me lo pigliavo? Era il mio attaccante. Quanti gol mi hai segnato? Pensavo contro. Abbiamo vinto 2 campionati, ma Enrico se lo ricorda benissimo. Grandi giri sul pullman scoperto la notte del quartiere. No, scherzo. Però veramente c'era un anno con Mancini fu una roba. Poi oggi Enrico Chiesa, uomo del giorno, perché era nella Fiorentina l'ultima volta che è stato primo in classifica, 98-99. Ha giocato con Mancini, ha giocato con Mihajlovic, con Allegri no, eh? Harry. No, con Allegri. Contro sì. Però noi ovviamente, Pardo, dobbiamo far sentire la voce del padrone, perché stamattina ha parlato Giorgio Squinzi a Cesaie, dove saremo anche noi mercoledì, e quindi lo facciamo sentire subito e poi parliamo di tutto quanto. Beh, potevamo essere anche più davanti, perché anche ieri siamo stati penalizzati da un arbitraggio discutibile, quantomeno. E io da milanista ho goduto ieri sera, però in effetti per quello che avevo visto l'Inter aveva avuto molta fortuna nelle prime partite, e quindi di fronte a una squadra che gioca, che fa gioco come la Fiorentina, non mi ha sorpreso. Allora, visto che io e Pardo ci asteniamo dai commenti, facciamo commentare Giorgio Squinzi da Enrico Chiesa, eh? Ti piace? Sono abbastanza paraculo, Piero. Esatto, beh, credo che abbia detto che Sassuolo si vinceva ieri era ancora meglio, ma credo che ha incontrato una squadra come il Chievo che ha messo in difficoltà parecchie squadre, soprattutto basta vedere la Lazio 4-0, una squadra che gioca, è stata una bella partita, però credo che il Sassuolo è una squadra, è una sorpresa di questo campionato. Una delle sorprese, certo. Sì, per quelle squadre che non devono lottare per lo scudetto, ma per lottare per un posto di prestigio a fine campionato. Insieme ovviamente al Torino, ma abbiamo detto più volte. Torino, Sampdoria, se la Sampdoria stasera vince arriva a 13 punti, certo, a seconda, certo. Perciò credo che è un campionato bello, soprattutto per quelli che stanno fuori a vederlo, entusiasmante, perché qua più c'è competitività nel calcio nostro in Serie A, più il livello si alza. Certo. Allora ci fermiamo un attimo per il traffico, poi apriamo tutti questi fronti, tutte queste discussioni con Pardo e Enrico Chiesa. 800 24 00 24, tutti convocati, naturalmente riapriamo anche con voi questi fronti, strade. Le vuoi dire che non mi stacca il microfono a sti signori che mi fanno parlare questi, lo puoi dire? Tutti convocati. Convocati. Chiedo ai ragazzi di continuarci sempre a lavorarci per competerci con tutti. Abbiamo le nostre armi, abbiamo le nostre capacità, io credo senza limiti, con ambizione, con molto coraggio di affrontare tutti i nostri avversari, c'è per averci solo un pensiero, vincere. Ormai Paolo Sosa quella storia da santone, quasi da guru della Fiorentina. Con Pierluigi Pardo e Enrico Chiesa. Enrico, diceva, dimmi. Sì, dimmi, Pier. un portoghese brizzolato che dice a Santino, fa un po' effetto, Sì. Nello stadio di Mourinho. Poi è più magro e più in forma rispetto a quando era giocatore, quando già era in linea, ma adesso lo vedi veramente pazzesco, tirato, potrebbe giocare, forse potrebbe giocare. D'altra parte, Enrico, questa Fiorentina un po' gli assomiglia. Beh, sì, credo che ci vuole un po' di tempo, ha avuto un po' quel tempo necessario per cercare di capire e conoscere anche i giocatori. Un ambiente come Firenze è un ambiente non facile, ma soprattutto che cercare di quasi trovare il sistema giusto di gioco, perché ha diversi giocatori bravi e ha comprato diversi giocatori, perciò ci è voluto quel tempo necessario per cercare di far sì che tutti possano seguirlo e lui trasmettere le proprie idee. Sì. Veniva anche da un campionato diverso dal nostro, da Basilea, perciò ci è voluto quel tempo. Però è un ragazzo intelligente. Come era in campo, credo che anche nelle interviste... Non è che fa interviste così banali, sì, banali, ma soprattutto a rispondere così, una risposta banale, sempre a cercare di anche magari un messaggio alla squadra. Certo. Io credo che lui è molto bravo sotto questo aspetto, poi è logico che bisogna essere bravi anche sul campo per cercare di trasmettere le proprie idee alla squadra. Ma è chiaro, ma di tempo non ce n'ha messo neanche poi così tanto, visto che si è già arrampicato in testa alla classifica Pierluigi, e soprattutto non è caduto nel trappolone di molti, Mancini compreso ieri, cioè quello delle continue rivoluzioni di moduli e giocatori su squadre che ancora non hanno un volto definito. Sì, ma questo è assolutamente vero. È chiaro che questo inizio di stagione in qualche modo riflette dei work in progress di tutta una serie di squadre. La Fiorentina ha avuto un precampionato bellissimo, e poi sappiamo che spesso il precampionato significa poco, e qui quindi insomma non era una garanzia, e invece si sta confermando. E la Fiorentina cambierà tanto quest'anno, no? Ha cambiato la filosofia di gioco, ha cambiato tanti interpreti, ha cambiato l'allenatore, quindi è abbastanza sorprendente quello che sta succedendo. Su Kalinic può essere una, come dicevo la settimana scorsa, un effetto diciamo di forma dovuto al fatto che lui chiaramente viene da un campionato che ha un calendario diverso dal nostro e quindi è diciamo più nel vivo, no? Più caldo rispetto a quelli che stanno iniziando adesso la stagione, quindi mi auguro per lui di no, ovviamente, ma potrebbe esserci un calo della seconda parte della stagione. Mi sa che non l'hai preso a fantacalcio, capito? No, non l'ho preso a fantacalcio, ma l'avrei preso molto volentieri. Ma il giocatore è buono, l'abbiamo visto l'anno scorso. A me pare ottimo questo giocatore curato, che ha avuto una crescita difficile. È passato in Inghilterra, ha avuto problemi in Inghilterra, poi ha trovato una dimensione in Ucraina e adesso potrebbe essere la stagione della consacrazione. A me piace molto. A te, Enrico Chiesa? È un giocatore che è cresciuto in queste settimane, come ha detto Parda, veniva da un campionato diverso dal nostro, da una preparazione diversa, da un ambiente diverso. Credo che è un giocatore che si sacrifica molto per la squadra, giocatore un po' atipico, è un centravanti, però gioca per la squadra. Poi ieri sera ha fatto 3 gol, è stato bravo, è opportunista anche per gli errori del portiere, però credo che è un giocatore che gioca per la squadra e per il gioco di Paolo Sosa è molto importante, un giocatore che viene incontro, appoggia, perciò è importante sotto questo aspetto. È un giocatore che cresce, il fatto anche di che faccia gol, poi il centravanti poi ti chiede sempre di essere bravo sotto porta. Certo. Però questo ha delle caratteristiche che per il modulo di Sosa è perfetto. Certo, ti faccio una domanda da allenatore naturalmente. Partita fatalmente strana quella di ieri per l'Inter che si è sciolta subito, sembrava non avere più certezze, dopo mezz'ora era sotto 3-0. Quanto può aver influito l'idea di Mancini di cambiare modulo, di passare alla difesa 3? Ma credo che Mancini nella prima mezz'ora ha cercato, perché io credo che la Fiorentina è stata brava a sorprendere l'Inter dove nei primi minuti, a parte che il gol è nato su un errore del portiere, non ci puoi far niente, però anche dopo il gol la Fiorentina, se andiamo a vedere i primi 20 minuti, è stata brava a aggredire i difensori dell'Inter, a non far giocare palla in modo tranquillo, e questo ha fatto sì di essere stato sorpresa sotto questo aspetto, e l'Inter ha perso molti palloni nella propria tre quarti e la Fiorentina è stata 3-4 volte pericolosa. Abbiamo visto anche il fallo da espulsione, ha perso palla e ha preso un contropiede. Perciò lì la Fiorentina in prima mezz'ora ha cercato di avere questa tattica e l'Inter è stata sorpresa. Infatti Mancini ha cercato in tutti i modi di cambiare, a spostare anche dei giocatori, ma cambiare modulo per cercare di non dare più la possibilità di essere aggredito nella propria fase difensiva. Brava la Fiorentina perché ha trovato la tattica giusta ieri sera. Poi ci sono quelle partite che nascono bene, finiscono bene, ti possono fare qualsiasi cosa che riesci a vincere, però la Fiorentina credo che tatticamente la prima mezz'ora è stata impeccata. Ci sono quelle che nascono male e finiscono peggio. Adesso volevo dire qualcosa per, se no ti faccio sentire cosa ha detto Evra l'altro giorno, ha fatto un discorso molto interessante su cui vorrei interrogarvi entrambi. Sentiamo. Evra. C'è molta gente che non rispetta il campionato italiano, cioè le squadre sono preparate molto meglio di quelle in Champions, questa già è una grande differenza. Dopo, io come ho detto, non voglio iniziare a essere una squadra che è forte in Champions League e una squadra che non va bene in campionato, perché il campionato è il nostro pane quotidiano, la Champions è un sogno. Cosa ne pensi, Pierluigi, di queste parole di Evra? Penso che abbia ragione, nel senso che credo che come tutte le mode in questo momento ci sia un po' una sottovalutazione all'estero del nostro calcio. Noi abbiamo un calcio che è sempre stato molto tattico e dal punto di vista diciamo degli allenatori e dell'aspetto appunto machiavellico, strategico delle partite, è sempre stato un calcio di altissimo livello. Poi siamo stati superati secondo me a un certo punto dal punto di vista fisico e la nostra attenzione tattica è diventata un po' un boomerang, nel senso che comunque secondo me poi alla fine siamo stati superati. Il discorso che facevamo, vi ricordo, un paio di anni fa con Sacchi in una famosa telefonata dopo una delle scoppole europee, cioè comunque ci siamo fidati troppo del nostro talento, della nostra capacità tattica e abbiamo smesso di giocare a pallone come invece facevano gli altri. Però quello che dicevrai in assoluto è vero, e poi secondo me stiamo già anche un po' uscendo dalla crisi, cioè io ho la sensazione e le coppe dello scorso anno lo dimostrano, con la Juve in finale, con Napoli e Fiorentina in semifinale di Europa League, che il peggio sia alle spalle. Mi auguro che sia così, insomma. Poi ovviamente non siamo negli anni 90. Negli anni 90 la nostra grande sfiga è stata che il calcio non è diventato economicamente quello che globale, adesso, perché certo, se fosse diventato globale in quegli anni, adesso si parlerebbe soltanto delle nostre squadre, sì, o comunque soprattutto delle nostre squadre, più che di Real, ricchi, Barcellona, Manchester e Chelsea. Enrico, ieri Prandelli, il nostro ospite, ci diceva un po' il contrario rispetto a quello che dice Evra, cioè che, ma questo lo ripeteva anche in nazionale, che dovremmo essere più preparati fisicamente, dovremmo allenarci di più, che non siamo all'altezza anche dal punto di vista atletico quando andiamo a giocare in Europa. Allora, dove sta la verità? È quella che dice Evra o è quella che dice Prandelli? Ma questo bisogna dipende dai punti di vista, bisogna vedere come si allena la Juve. Io credo che a livello tattico sì, lavoriamo tanto, ma bisogna vedere come si lavora a livello tattico. Se fai un lavoro tattico ma di grande intensità, penso che sei preparato. E io credo che siamo un po' indietro rispetto agli altri campionati, perché gli altri campionati hanno altri giocatori, altri campioni, altri giocatori di talento, questo sì. Perciò non solo a livello fisico noi perdiamo, ma possiamo perdiamo soprattutto a livello di gioco, perché i giocatori rispetto a tanti anni fa mancano, il talento manca, e questo poi alla lunga, sono d'accordo che si può preparare una squadra fisicamente tutti quanti bene, ma poi la palla deve già essere giocata, ci deve essere gioco, ci devono essere il talento, ci deve essere i giocatori che la buttano dentro, e questo a livello europeo, se andiamo a vedere gli altri centravanti, ne hanno tanti, e noi questo manchiamo, e vediamo anche la fatica che fa Conte a mettere non è, certo, non è a centrocampo. Adesso noi pensiamo che la Juve non ha più Pirlo, ma quando è che avremo un nuovo Pirlo? Tra quanti anni? Perché Pirlo in Italia non ce n'è. Chiaro. Ce l'hanno quasi all'estero, perciò voglio dire, si sta perdendo, non abbiamo giocatori di avvenire già ancora, ce l'auguriamo, però se poi a livello di gioco, di squadra, soprattutto di giocatori, non ne hai, fai fatica. Sì, non è né rugby né atletica leggera, quindi quello che dice Pardo, cioè una volta avevamo un miliardo di talenti nelle famose sette sorelle, adesso non ne abbiamo più. Io volevo chiedere un'ultima cosa, Enrico, chiedo su un altro suo ex compagno, e cioè Sinisa Mihajlovic, che è un altro ex compagno che sta incontrando problemi molto peggiori di quelli di Mancini. Sta trovando difficoltà, lui cerca di in tutti i modi cercare soprattutto di mettere in attacco, ha tante alternative, i gol li farà sempre, è la fase difensiva che fa molta fatica, fa fatica non tanto di reparto, ma fa fatica di particolarmente, e ci sono degli errori proprio singoli che permettono poi la squadra di far gol, e in questo momento fa fatica, però io lo conosco bene, come ha lavorato a Genova in un anno e mezzo. Ci vuole un po' di tempo, poi dobbiamo pensare che sempre Milano è una piazza molto efficiente, e è normale che ci possano essere queste difficoltà, ma io credo che poi alla fine uscirà fuori con i giocatori. Sicuramente io credo che i giocatori seguiranno e non molleranno anche in questo momento di difficoltà, credo che poi i risultati verranno fuori. Grazie Enrico. Grazie, a presto. Ciao Enrico Chiesa. Ciao. Sentiamo un altro Enrico da Siena, a cui rispondiamo prima della borsa. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Allora, due constatazioni velocissime e una preghiera. La prima constatazione. Partiamo dalla preghiera. Mi piace. No, partiamo dalla constatazione. Era bella la preghiera. La preghiera non era male. La preghiera è per voi e per lei e Pardo, quindi. Allora, la facciamo subito. No. La constatazione è che secondo me Galliani ha tirato un altro pacco a cugini e azzurri. Ah, io so per Siena, quindi non so per Mila, Fiorentina. Con Dombia, perché con Dombia in Serie B c'è 3 o 4 me con Dombia. La seconda è che Mancini è l'allenatore più sopravvalutato della storia del calcio. Ha vinto una Coppa Italia con una partita, è andato a Manchester, l'hanno comprato tutti, è riuscito a vincere un campionatino e a 5 minuti dalla fine perdeva 2-0. Poi gli sceicchi hanno comprato anche pali delle porte e ha vinto 3-2. Con l'Inter ha vinto con Ibrahimovic, che vinceva anche Alvaro Vitali. Ho capito, però Pardo e Alvaro Vitali di campionati non ne vinciamo, lei stia sicuro? La preghiera è, mi raccomando, lei e Pardo, siccome io vi stimo e vi ascolto, un po' più cauti nei vostri commenti. L'Inter non prende gol, l'Inter è una macchina perfetta, l'Inter è compatta come il Milan di Capelli, come qui, come là. Ma no, no, voi, giorno, mese. L'Inter non prende gol nelle prime 5 partite, non è che l'abbiamo detto noi, l'abbiamo detto i numeri. Ne ha preso uno, ha preso un gol in 5 partite. Macchina perfetta non l'ho mai sentita, né da me né da Pardo. Io non ho mai parlato di campionato chiuso, anzi, siccome sono uno che tende a non fare 0-0, ho detto una settimana fa che mi intriga molto il Napoli, che sono molto curioso sul Napoli, lo ribadisco, sono molto curioso sul Napoli, cioè per me il Napoli può vincere il campionato, questo è quello che penso. Sì. Poi, detto questo, su Mancini, beh, sì, è un po' drastico il suo giudizio. Su Mancini ci sono varie scuole di pensiero. Non è solo il nostro amico ascoltatore, cioè c'è gente che la pensa così, nel senso che sì, sicuramente però il discorso molto, a vincolo perché hanno i giocatori bravi. Ripeto, se giochiamo io, te e il signor Enrico da Siena, sì. Mancini allenatore, Mourinho allenatore, Ancelotti secondo vice allenatore e Capello preparatore dei portieri, stai sicuro che lo scudetto non vinciamo? No, ma infatti questo è indiscutibile. Mancini comunque è uno di quelli che ha vinto e non sono molti gli allenatori che hanno vinto. Questo è un punto di partenza che va detto. Poi, come tutti, ci sono stagioni non fortunate. La scorsa stagione a me Mancini, l'ho detto mille volte, mi ha deluso, nel senso che secondo me nella passata stagione il cambio Mazzarri-Mancini si è rivelato inefficace. Quest'anno è partito molto bene, secondo me ha costruito una buona squadra. Non bisogna dimenticare il problema di Jovetic di ieri, che secondo me è importante da dire. Handanovic ha fatto una partita che sembrava non il fratello, perché il fratello è portiere pure lui, ma sembrava il cugino. E quindi è chiaro che insomma ieri è andato tutto storto. Poi se mi chiedi il mio allenatore preferito della storia del calcio, è chiaro che c'è gente che ha vinto più di lui, però ecco, sì. Dire che è sopravvalutato e che è scarso adesso improvvisamente. No, poi sai, ci sono due allenatori che in generale all'opinione pubblica lato senso non piacciono molto. Uno è Mancini e l'altro è Allegri, di cui parleremo subito dopo la borsa. Di che cazzo stiamo parlando? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi investi con noi. Vi presenta. Ti scriveranno, ti chiameranno, io ti sento, certo, anche a Radio 24, a tutti i convocati. Tutti convocati. Silenzio in aula, stanno per entrare i giudici. Facciamo questo gioco. Pierluigi Pardo, questa è la tua toga, infilala. Sì. Mettila, io ho già infilato la mia nera. E ovviamente, come in ogni processo che si rispetti, c'è un avvocato difensore che si chiama Massimo Zampini. Buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Che Pardo conosce bene. Spero non ci sia collusione tra giudice e avvocato difensore, sennò il processo è nullo, come dice la legge. Sì. Allora, cominciamo con gli imputati. Il signor Allegri, Massimiliano. Faccio l'allenatore, quindi sono sempre il mirino. Io in particolar modo, perché non aspettavo un altro questo momento in tanti, e quindi ora incomincia il divertimento, ora incomincio a divertirmi anch'io. Non sono così convinto che si stia divertendo, Pardo. No, ma io sono il giudice, quindi parlo alla fine, prego. Prego, Massimo Zampini, avvocato, dica. No, non mi sto divertendo per niente, a dire il vero. Poi, da questo, e secondo me ci sono anche degli errori dell'allenatore. Per esempio, non vedo una squadra con carattere. Fai il 2-1, dopo una partita così, hai mezz'ora da giocare, voglio una mezz'ora d'inferno. E invece non si vede praticamente una reazione. E ce ne sono altri, vedo tante piccole cose. Ci ho detto, se si tratta di difenderlo, lo difendo con convinzione, per il fatto che oltre a quello che ha fatto l'anno scorso, sicuramente rispetto alle voci che leggo oggi, per me sono follie quelle di Allegri via. La Juventus, l'allenatore, quando è la Juventus davvero, ai dirigenti giusti, non lo cambia mai in corso di stagione, figuriamoci dopo un mese e mezzo e dopo la stagione scorsa. Quindi no, qualche critica ci può stare ed è legittima, però errore principale. L'errore principale probabilmente è questo, che ancora la squadra non ha un'anima, non ha un modulo, cioè nel senso che ancora la vediamo troppi cambiamenti. Sì, da tutti i punti di vista. speriamo di volta in volta che sia trovato il modulo giusto. Quel 4-3-3 di Manchester ci era piaciuto, quindi pensavamo che potesse essere quello definitivo. Poi si torna indietro, si va. Quindi io fossi lui insisterei sulle idee di Allegri, andando fino in fondo con quelle idee, e poi a fine anno si vedrà. Presidente della Corte, Pardo. Ma devo già dare il verdetto oppure... No, sì. Cioè questo simpatico teatrino quanto lo voglio? No, nel senso, io se volete vi do già il mio verdetto, ammesso che... No, io sono innocentista su Allegri, cioè penso che chiaramente lui stia facendo degli errori, questo è indiscutibile, tutti stanno facendo degli errori, ma credo che innanzitutto non sia soltanto colpa sua, penso che la Juve nella seconda parte del mercato si sia incartata. E penso, come diceva ieri per esempio Cesare Prandelli, che questo sia l'inizio di un ciclo, quello che appunto sembra la fine del mondo, in realtà non è altro che l'inizio di un nuovo percorso. La Juve si è ringiovanita, ha perso alcuni giocatori anche perché doveva perderli per scelte di vita e cose similari, sì. E quindi certo, perfetto, e sicuramente non la sta gestendo bene. Adesso c'è mercoledì Juve-Siviglia, che diventa una partita importantissima, e non è che non ci sia notizia, la notizia c'è ed è giusto, è normale che i giornali parlino e anche che si parli di Allegri in bilico. Io però non lo cambierei. No, anche perché fino adesso ha allenato metà della squadra che in teoria, sto esagerando, però ha allenato comunque una squadra incompleta per via soprattutto degli infortuni. A proposito, che dire, è tornato in gruppo e presto lo rivedremo in campo. Per Marchisio si parla di un rientro con l'Inter, anche Mandzukic sulla via del recupero, però le assenze sono state pesanti, soprattutto in un momento in cui c'è da ricercare una fisionomia come questo. C'è anche uno della giuria che vuole parlare, Giuseppe da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, tifoso della Juventus. Io sono in parte d'accordo con quello che avete detto, l'argomento chiaramente è Allegri, sul quale volevo intervenire. Però quello che vedo da casa, da spettatore di calcio in televisione, è che la squadra sembra reagire quasi di pancia ogni qualvolta va giù pesantemente con più o meno delle squadre della stessa categoria, come il Manchester, come la Roma e come il Napoli. Ma subito dopo poi a Manchester è riuscita, complice anche probabilmente dalla parte un aspetto tattico non così stretto, ma contro Roma e Napoli, Roma... Ci riuscivamo quasi, mancava forse poco tempo, ma contro il Napoli poi si è sfaldata, si è completamente disunita, come se non sentisse quello che viene detto dalla panchina. Cioè quello che io vedo da spettatore è che i giocatori vanno per i fatti loro. E a mio avviso è un atteggiamento che loro hanno avuto anche nella partita contro il Barcellona, nella finale. Abbiamo segnato 1-1 e siamo andati poi avanti da soli, cioè un allenatore tutta la buona volontà, con tutta la buona volontà io non ci credo che i giocatori non ascoltino Allegri dopo, perché altrimenti non avrebbe vinto lo scudetto, la Coppa Italia, non sarebbe arrivato in finale di Champions League. Adesso è un'altra storia, un altro discorso, ma non credo che si mettano la cera nelle orecchie. Secondo imputato può essere solo la squadra. E in queste 8 partite secondo me abbiamo avuto delle risposte molto importanti, in alcune gare molto convincenti e in altre molto meno. Dobbiamo ancora trovare un equilibrio di squadre. Sei d'accordo con Buffon, Massimo Zampini? Sì, ovvero sia, sì, sono d'accordo con Buffon. Non abbiamo sentito la parte in cui lui diceva lo scudetto, la parola scudetto in questo momento va accantonata, non abbiamo sentito per fortuna le parti in cui altri elementi hanno parlato di transizione. Se tu mi chiedi una colpa della squadra, io ancor più di quello che accade in campo, dove è difficile distinguere le colpe dell'allenatore, della società, dei giocatori, è che fuori secondo me un po' parliamo troppo, ma questo insomma si dice sempre quando le cose vanno male, e un po' non si deve mai dire alla Juventus, né che la parola scudetto va accantonata, anche se ovviamente il suo senso era un altro, era quello di dire pensiamoci più avanti. Transizione non esistono, perché è stato fatto un mercato dove sono comunque acquistati moltissimi giocatori, si parla sempre di Pirlo, Vidal e Tevez, ma ricordiamo che sono arrivati 1000 sostituti più due esterni come Cuadrado e Alexandro che non c'erano l'anno scorso. Quindi ecco, io vorrei solo che anche la squadra benissimo valutasse nel modo giusto le partenze di Pirlo, Tevez e Vidal, ma fosse consapevole e avesse un po' di autostima in più. Sì, basta con la vedovanza, Pierluigi. Sì, basta con le domande. Tu sei d'accordo? Accantoniamo la parola scudetto, come dice Buffon? Sì, io capisco Zampini, chiaramente che ha un coinvolgimento anche sentimentale, possa fare questo tipo di ragionamento e essere impazzito al fatto che uno dica accantoniamo la parola scudetto. La verità è che tutte le grandi squadre, tutte possono avere delle stagioni in cui devono accantonare la parola scudetto. Io non credo che sia ancora arrivato quel momento, nel senso che soprattutto alla luce del risultato di ieri le distanze sono distanze enormi, ma non sono così clamorosamente incolmabili. Certo, la Juve da adesso in poi dovrebbe fare un percorso netto impressionante, dovrebbe, tanto per essere banali, andare a vincere il big match contro l'Inter fra due settimane. Sì. È chiaro che poi se lo vince magari già la distanza comincia a essere meno 7 o cose simili, e che la stagione ovviamente è lunghissima, però dovrebbe esserci un cambio completo di passo che al momento è abbastanza complicato da intravedere, lo dico sinceramente. La squadra secondo me rimane buona, non mi sembra una squadra che, però è senza alcuni punti fermi che evidentemente servivano tantissimo. Quindi insomma, io credo che lo scenario più plausibile è quello di una squadra che torna a combattere per un posto tra le prime tre. Ecco, già quello, io oggi fossi Zampini, un terzo posto lo firmerei, forse lui no. Però no, ma a me l'analisi di Luigi la trovo corretta, e giustamente poi l'osservatore esterno si può fare qualunque analisi dopo la prima, seconda o terza partita, sentire i giocatori, soprattutto dopo una restaurazione, una rivoluzione del genere, già dire transizione, loro non devono dirlo, secondo me. Poi io sono d'accordo, ma io vi dirò di più, che dopo quattro scudetti di fila, che io non avevo mai visto in vita mia nella Juventus, solo chi è nato negli anni 20 li aveva visti, certo. Dopo quattro scudetti di fila, anche il quinto, anche con Pirlo, Vidal, Tevez, non so chi, secondo me era molto complicato, mentre molti lo davano per scontato. Per me non c'era niente di scontato, quindi figurati, io sono convintissimo che probabilmente non vinceremo. Ma firmeresti Massimo il terzo posto? A firmarlo ora no, però magari se mi richiamate tra un mesetto probabilmente lo firmo, insomma. Va bene. Allora teniamoci in contatto. Sì, grazie Massimo. Grazie Massimo Zampini. Ci fermiamo per la borsa. L'udienza è tolta. Tutti convocati. Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta convocati. Ora ascoltatori, 800240024, numero verde, Claudio da Modena primo. Buongiorno. Buongiorno. Saluto anche Gianluigi Pardo. Gianluigi Pardo. Ciao, cattivo. L'ha detto apposta, però. È vero? Allora, lui era innocentista a proposito di Allegri, io no, sono colpevolista. Due indizi fanno una prova. Al Milan, il secondo anno che è stato lì, ha avuto una serie di infortuni che era fuori del mondo. Alla Juventus stessa cosa, il che già significa che lui come preparazione atletica non la sa fare. E questa è la prima cosa. La seconda è la società. Sono d'accordo con Pardo quando dice che il mercato della Juventus nella seconda parte è stato completamente catastrofico. Perché l'unico giocatore che oggi dimostra di avere un po' di come dire di voglia di vincere è Quadrato, che l'abbiamo preso tre giorni o due, non so quanto, prima della chiusura del mercato. Beh, non lo so, se una squadra che fa un mercato catastrofico alla fine prende Quadrato, Alessandro e mettiamoci anche Hernanes, beh, io vorrei fare il tifo per una squadra che fa un mercato catastrofico. Però Carlo, manca un pochino di chiarezza, perché Quadrato per esempio è un giocatore ovviamente di livello alto, ma che serve per un modulo che non è quello che ha mai provato Allegri, e quindi francamente è stato un bel acquisto, ma diciamo fuori focus. Hernanes è stato un ripiego dell'ultima ora. Io non cambio idea, penso che l'Inter in quel momento lì abbia risolto un problema alla Juve, o perlomeno abbia dato alla Juve la possibilità di provare a risolverlo. Poi è chiaro che chi ha visto Napoli-Juve dice che il problema è tutt'altro che risolto, perché Hernanes non è all'altezza e l'Inter si è fatta 11 milioni che erano utili per il suo mercato, quindi per carità, i conti li faremo alla fine. Però in ogni caso, secondo me in quel momento lì chi aveva più bisogno mi sembrava la Juve, e l'Inter ha dato questa disponibilità alla cessione. E per il resto, insomma, Llorente, non ho capito la cosa di Llorente, ma insomma, io ribadisco, per me la Juve vive dopo quattro anni così un momento di normale, direi quasi legittimo cambio di ciclo, di scenario. Complessivamente mi sembra che i giocatori che ha preso, penso a Dybala e penso a Rugani, possano rappresentare il futuro. Non mi sembra un quadro così catastrofico. Certo, non mi aspettavo questa partenza, non c'è discussione, e Allegri sta facendo i suoi errori, però ripeto, non è che tu, cioè, non è che l'anno scorso ha vinto, l'ha fatta lui la preparazione l'anno scorso, non è che l'ha fatta Conte, è arrivato dopo un giorno, dopo un giorno. Vi ricordate che Conte diede dimissioni un giorno dopo, sì, che, si è presentato giusto per consegnare dire, la borsa. Dire sì. Che l'anno scorso la preparazione l'ha fatta Conte mi sembra francamente poco carino. No, ma poi dicevamo anche ieri, Allegri non ha preso niente dal Milan, cioè non ha ereditato una squadra vincente dal Milan, ricordavamo ieri, ha ereditato la squadra di Leonardo e l'ha portata lui allo scudetto, non è stato un altro. Eugenio Imperia, buongiorno. Ciao, senti, voglio dire una cosa, ma com'è possibile che i calciatori alla quinta di campionato siano tutti rotti in infermeria, non è che fanno i muratori? Due, gli allenatori, io sono un tifoso interista, come Mancini, danno sempre la colpa agli altri. Se poi i fenomeni dell'Inter sono Jovetic, Melo, Ranocchia e Santon, ragazzi, siamo a posto. No, siamo al top, come dicono certi comici. Come dice certe volte Pierluigi Pardo, siamo al top. No, ma non credo che, insomma, bisogna distinguere tra quelli che lei ha citato. Jovetic ieri non ha giocato, si è fatto male riscaldamento, è stata una grave perdita per l'Inter. Tanto per cominciare. No, poi vedi come liquido il calcio. Adesso Felipe Melo è diventato improvvisamente un problema. Uno scarso. La verità è che secondo me Felipe Melo è un buon giocatore, punto. È un buon giocatore, ieri sera ne parlavamo proprio con Prandelli che ce l'aveva avuto a Firenze, è uno che quando è stato chiamato a fare l'etichetta del regista che doveva cambiare la Juve, ha comprato per 25 milioni, ha fallito. Se viene messo in un centrocampo che funziona a fare il mediano, lo fa molto bene. E qualche volta capita che segni pure, come è successo contro il Verona. Sì. Ieri è successa una cosa che non è un dettaglio, quindi è ovvio che le nostre valutazioni di oggi sono molto diverse da quelle di ieri, perché ieri l'Inter al secondo scontro diretto del campionato, dopo quello vinto contro il Milan, ha perso pesantemente e ha perso secondo me molta dell'autostima che aveva costruito in questa giornata. Sì. Quindi, c'è anche chi dice che quattro schiaffoni possono fare bene. I quattro schiaffoni possono fare bene, pensa alla Lazio, però possono anche fare male, cioè, nel senso che comunque alla fine possono anche incrinare delle sì. certezze che faticosamente l'Inter di Mancini si stava costruendo. Sì, a presto la risposta naturalmente, non manca, al massimo una settimana. Lorenzo Milano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, Pierluigi proprio non ha per nulla in considerazione la Fiorentina, a parte perché prima ha detto se perde, se vince con l'Inter è a meno 7, in realtà sarebbe comunque a meno 10 della Fiorentina. Ma c'è questo. Ecco, la Fiorentina ieri, io sono tifoso della Fiorentina, ha fatto comunque gli stessi errori di sempre, perché a un certo punto ha cominciato a fare un torello, cioè, come se fosse era 3-0 però, sì, 3-0, ma insomma ha preso un gol, se ne prendeva un altro, volevo vedere come finiva la partita. Invece... e davanti aveva una squadra di gente che non sa giocare a calcio, perché se guardi, io non avrò considerazione della Fiorentina, ma se lei nella partita di ieri vede una Fiorentina che è la solita squadra di sempre, non lo so, per me ieri ha fatto una partita pazzesca, una partita enorme, una partita, un'umiliazione tattica, tecnica, mostruosa. Insomma, io penso che sì, certo, ha subito il gol del 3-1, forse ha perso per qualche minuto il controllo, ma il controllo l'ha mantenuto con una serenità, anche con l'uomo in più che certamente le ha dato una mano, perché 11 contro 10 è chiaro che fare possesso palla certo. Diventa molto più semplice. Però ma mi sembra che abbia ripreso a giocare esattamente alla velocità di prima, quando ha preso il gol di Icardi, cioè ha ricominciato lo spartito precedente, faceva Torello 3-0, un uomo in più che deve fare. Assolutamente. Vediamo se riusciamo a parlare in un minuto anche con Luciano da Pescara. Luciano, dica. Sì, salve. Una piccola considerazione a sfavore di Allegri. Si parla sempre di rifondazione Juve, no? Ma tra le grandi e le pretendenti allo scudetto, chi è che non ha fatto una rifondazione? Mi pare che tutti hanno cambiato parecchi giocatori, no? Beh, rifondazione no, però dai. Le fondazioni no, è come se il Napoli avesse venduto Higuain, Hamsik, non lo so, e Callejon. È come se la Roma avesse venduto, non lo so, Pjanic, Nainggolan e Florenzi. Però l'Inter ha fatto una squadra nuova, questo è innegabile. L'Inter ha fatto una squadra nuova, la Juve ha fatto una squadra nuova perché l'ha dovuta fare, perché comunque Tevez e Pirlo sono andati via e Vidal è stato venduto. Vidal poteva essere tenuto sicuramente. Vidal è stata in qualche modo anche una scelta avallata economica, ma che ci sta, esatto. Per quei quattrini ci sta. Va bene, Pier, cos'hai stasera? stasera ho una bella puntata con tanti ospiti, con Quagliarella, con Aviere Quaglia, con tutta una serie di collegamenti con Firenze, che sarà protagonista. Stiamo cercando di capire in che modo e in che forma, insomma, ma abbiamo invitato praticamente tutti, dal presidente all'allenatore, quindi speriamo che qualcosa per stasera sia pronto. E poi abbiamo Peter Gomez, abbiamo l'intervista a Giuliano San Giorgio di Negramaro, abbiamo Telese, abbiamo Mughini, abbiamo Max Biaggi, grande tifoso della Roma, Giuliano Palma, di tutto di più, Melissa Satta, tante cose, collegamenti con Borisov perché domani la Roma torna in campo, tante cose. Ci vediamo a notte fonda. Ciao Pierpaolo. Noi invece ci fermiamo per il GR e poi continuiamo ancora, soprattutto con voi, 800 24 0024 è il numero verde. E saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Che dire, arrieccici. Convocati. Si riprova ancora. Si riprova ancora. Non è Domo. Lorenzo c'è. Lorenzo c'è. C'è il Gran Premio di Aragona in solitudine. Ma che gara, Guido. Davanti a Pedrosa. Bravi, applaudiamo. Applausi a scena aperta. Tutti e due, tutti e tre. Ci ho provato e ho delle cose per cui essere contento, perché la battaglia è stata bellissima e anche la gara è stata bella perché sono riuscito ad andare forte. Peccato che alla fine mi ha battuto. Ci ho provato, vi assicuro, in tutti i modi, ma oggi era forte, era ispirato e quindi non mi ha fatto stare davanti. Così ieri ad Aragon per quanto riguarda il moto mondiale, con Lorenzo in volo solitario ad accorciare di nuovo l'elastico su Valentino Rossi, 13 punti, e questo combattimento corpo a corpo tra Rossi e Pedrosa, che ogni tanto si ricorda di essere un magnifico pilota e non uno splendido perdente, soprattutto quando non serve poi così tanto per il titolo. Comunque fa un grande favore al connazionale e Rossi non ha mai dato l'impressione effettivamente in questo lungo duello di riuscire a battere ieri Daniel Pedrosa, di fatto non c'è riuscito. Quanto agli altri motori, quelli di Suzuka, quelli della Formula 1, a proposito di motori c'è stato questa conversazione che ha fatto molto parlare tra Alonso e il suo box, cioè quello della McLaren Honda. Si correva in casa della Honda, lo ricordo. Alonso, ah, durissimo, motore di GP2. Mamma mia. Ho capito di bene. Mostra, sì, anche io ho capito questo. E qui dimostra la frustrazione che ha Alonso. Sì, Alonso non è nuovo a comunicazioni strane, molto dure con i box. Certo, questa, a definire quel motore in casa dei produttori un motore di GP2 è abbastanza forte. Domani apriremo una lunga parentesi relativa al weekend dei motori e alle prospettive che ci attendono da una parte Formula 1 e dall'altra. Formula 1 c'è stata la restaurazione della Mercedes ieri e dall'altra con Valentino Rossi ancora in testa al mondiale. Piano partita per ora. Adesso io collegato il COS che ieri ha vinto la Supercoppa italiana di basket. Poi avremo un'altra sorpresa per i tifosi della Fiorentina, visto che dite non parlate mai della Fiorentina, oggi abbiamo parlato tantissimo. Max Menetti, coach di Reggio Emilia, complimenti innanzitutto. Ciao. Grazie, coach. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao. Senti, la favola continua. Finale scudetto alla settima, forse più bella serie di finale. Non è passato molto tempo, ce la ricordiamo tutti, che abbiamo vissuto negli ultimi anni della pallacanestro italiana. E ora la Supercoppa italiana che arriva a Reggio Emilia, tolta dalle mani della solita Milano che si squaglia sul più bello anche con Repesa. Sì, diciamo che per noi vale molto anche per dopo quella bellissima finale, vale molto perché il secondo trofeo della storia del club, il primo italiano, perché il primo trofeo è stato l'Euro Challenge 2 anni fa. Vale molto perché abbiamo battuto Sassari e Milano, che sono due squadre di altissimo livello. Vale molto perché continuiamo con la stessa linea e soprattutto con la stessa voglia di fare una pallacanestro e di fare delle squadre diverse da tutti gli altri. Sì, la vostra forza, secondo me, è un discorso che stiamo praticando anche al calcio, però la vostra forza è stata quella di cambiare il giusto, cioè l'ossatura della squadra, al di là di Cinciarini, che è passato invece dalla parte di quelli battuti ieri sera, è rimasta più o meno la stessa, compresi tre giocatori della nazionale italiana. Assolutamente sì, guarda, lo dice lo juventino che capisce bene cosa vuol dire invece quando, quando cambiano e cosa, quando si cambia e quando finiscono i cicli. Noi invece abbiamo voluto trovare invece dei, così, dei ponti che potessero unire la, le ultime stagioni a quella che andremo a fare, e per adesso insomma mi è sembrato un ponte solido, ecco. Poi da adesso naturalmente la stagione inizia, perché non è neanche iniziata la stagione, però per noi è un trofeo che vale veramente tanto, vale, non dico come uno scudetto, però per Reggio Emilia, che non è né Siena né Milano o altre situazioni, che nonostante i nostri 40 anni di Serie A è un appuntamento, è stato un appuntamento veramente importante. Sì, Max, però adesso forse non potrete più correre tanto da underdog, siete vice campione d'Italia, avete vinto la Supercoppa italiana, quindi insomma siete accreditati come una delle grandi forze del campionato, è innegabile, sì. No? Questo sì, guarda, devo dirti la verità che abbiamo scoperto, ma questo ci fa piacere, che invece per gli addetti ai lavori non siamo proprio nelle primissime file. Peggio per loro. Ma sì, ma infatti devo dirti la verità, guarda, dei miei 16 colleghi solo uno ci ha accreditato per essere una delle, tra le favorite, comunque la favorita del campionato. Ma questo ci fa enormemente piacere, naturalmente, perché è ovvio che l'arrivo di Reggio a Milano ha dato così, li ha rimessi di nuovo davanti, al di là di quello che l'Olimpia deve sempre fare. Sì. È ovvio che Sassari deve difendere lo scudetto, e Venezia ha fatto un mercato di alto livello. Noi probabilmente, sai, la questione di andare avanti sulla nostra linea e magari di non aver così presi i nomi roboanti, magari per sostituire Cinciarini e lo stesso Dinner, magari può averci tolto un po' di favore dei pronostici, ma va benissimo. Ecco. Sì, sì, sulla carta va benissimo, tanto sulla, sì. Sulla carta non si gioca, si gioca sul legno. No, purtroppo no, purtroppo con la carta non si gioca. Con la carta non si gioca, quella dei giornali invece è buona per incartare, quella del giorno prima è buona per incartare il pesce, o come dice Mino Raiola, per lavare i vetri della macchina. Fantastico. Senti, un'ultima cosa, Max, Reggio Emilia in questi giorni, una delle capitali, in questo momento storico, una delle capitali italiane dello sport. Ripeto, la tua squadra, vice campione d'Italia, fresca vincitrice Supercoppa italiana, da quelle parti gioca anche il Sassuolo, che male in campionato non sta andando. C'è un'aria un po' diversa in città? C'è una sorta di rinascimento dello sport reggiano? Ma sì, guarda, noi siamo passati da metà degli anni 90, credo che nel 92-93 a Reggio Emilia e provincia ci fossero 11 squadre in Serie A. Parlo di pallavolo, pallavolo maschile, certo, femminile, certo. Parlo di hockey, parlo di tutti gli sport, oltre naturalmente alla nostra reggiana. È evidente che noi stiamo facendo veramente bene da 3-4 anni. La novità bella è anche che anche la reggiana, nonostante purtroppo sia il 21esimo credo campionato consecutivo in Lega Pro, ha fatto un campionato di buon livello. L'arrivo del Sassuolo, al di là del campanilismo, oggettivamente ha riportato il grande sport a Reggio, e questo è naturalmente molto importante. Da un lato nel calcio noi abbiamo un impianto fantastico rimesso a nuovo dal progetto Mapei, purtroppo invece nella pallacanestro noi siamo rimasti agli anni 60, abbiamo un palazzetto totalmente inadeguato, e purtroppo questo è il grande freno allo sviluppo e alla crescita della franchigia, perché oggettivamente con un palazzetto di 50 anni fa puntare in alto, anche soprattutto in Europa, come vorremmo fare dopo la vittoria Euro Challenge, naturalmente è totalmente impossibile. Nessun piano? Non ci sono piani di... No, di piani credo che ci siamo al quarto plastico. Al quarto plastico, sì, questo l'ho già vista anche qui vicino, al Milan. Il sindaco Vecchi, che è stato da fare, ha messo a disposizione un qualcosa per fare un piccolo ampliamento del parabrezza, però da passare da 3.500 a 4.500 non cambia assolutamente niente, no, per una squadra che durante questi playoff probabilmente avrebbe riempito dei palazzetti a 10.000 e a quel punto lì, sai, il coinvolgimento e anche soprattutto noi abbiamo il problema di non poter dare, non potrei prendere sponsor perché non abbiamo abbonamenti da poterli dare. Questa è la realtà in cui in questo momento vive Reggio Emilia. È triste da un lato, però vuol dire che abbiamo fatto veramente un lavoro fantastico, vorremmo continuare su questa linea. Con i fari spenti, Max, mi raccomando. Sempre, lasciali spenti, se non sono accesi, lasciali spenti. Viaggio sott'acqua. Assolutamente sì, sarà fatto. Ciao, grazie, in bocca al lupo. Complimenti, ciao, Max. Lupo, grazie. Ciao. Max Menetti, ciao. Allenatore della Reggiana Pallacanestro, che ieri ha vinto la Supercoppa Italiana. Torno agli ascoltatori e poi arriva un mio amico fiorentino a microfono. Mario da Milano, buongiorno. Buongiorno Genta. Buongiorno. Volevo tornare un attimino sul discorso di Allegri. Sì. Niente, premetto che io sono milanista, tesserato a San Siro da più di 30 anni. E ho visto parecchie cose di Allegri. Prima ha detto una cosa, no? Che il Milan ha fatto vincere lo scudetto. Allegri ha fatto vincere lo scudetto al Milan preso dal spaccello di Leonardo. Si è dimenticato però di aggiungere un piccolo particolare, che a fine agosto è arrivato un certo signor Ibrahimovic, certo. E in più quell'anno Thiago Silva, sì, no, ma credo che abbia fatto la sua miglior stagione, perché assolutamente, Mario, però io non stavo, il mio discorso era diverso, perché sono intervenuti molti ascoltatori a dire: beh, Allegri aveva preso una squadra che funzionava al Milan e poi ha vinto lo scudetto, aveva preso una squadra che funzionava da Conte e ha vinto lo scudetto. Io mi ero limitato a notare che Allegri al Milan non aveva ereditato una squadra vincente, aveva ereditato una squadra sulla quale poi è stato innestato Sua Maestà Ibrahimovic. Era questo il senso del mio discorso. Poi è chiaro che Allegri è un allenatore, non so perché, eh? Allegri come Mancini sono allenatori che non godono di grandi favori, di grandi simpatie da parte dell'opinione pubblica complessiva. Ma a me sono molto simpatici tutti e due, in particolare Allegri. Io francamente faccio fatica a capire perché. Cioè, faccio fatica a capire perché debba essere messo in discussione, soprattutto dalla gente juventina, dall'opinione pubblica juventina, un allenatore che l'anno scorso è arrivato a tanto così da fare triplete, cioè campionato Coppa Italia, finale di Champions League. Quello non l'ha fatto Conte, l'ha fatto Allegri Massimiliano. Antonio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sono d'accordo con lei, io sono milanista. Allegri è venuto lì, ha preso una squadra così così, ha vinto lo scudetto. Cioè, il secondo anno gliel'hanno cippato, perché è la verità. Il terzo anno gli hanno disfatto la squadra, dato la Juve, ha fatto la stessa cosa, sempre colpa di Allegri. Sì, tra l'altro, se mi permette, ha ragione, ragione. Beh, scippato quello scudetto lì, il Milan scippato, gol di Montari, solite storie, in parte buttato, perché diciamoci la verità, con quella squadra non era ancora la Super Juventus, era l'inizio del ciclo della Super Juventus. Il Milan era la squadra più forte di quel campionato e ha perso lo scudetto. Nella terza stagione, con la squadra smontata, Allegri è partito malissimo e poi ha fatto una grandissima rincorsa, un grandissimo recupero. E forse quella stagione è stata quella in cui ha più dimostrato di essere un eccellente allenatore. Allora, adesso vi voglio far sentire quella che a nostro insindacabile giudizio è la top 3, i tre gol più belli della giornata. Beh, sul primo, ragazzi, mi sembra che non possano esserci dubbi, eh? Van Benassi del Torino. Alza il pallone Maxi Lopez, si coordina Benassi per il destro, rete! Un gol capolavoro in diagonale, battuto il portiere sorrentino. È un gol strepitoso. Secondo gradino del podio per quello che secondo me invece è in questo momento il più forte giocatore italiano. Si chiama Lorenzo Insigne. Bella apertura per Insigne. Insigne che torna sul pallone. Si è allargato Hamsik. Ancora Insigne. Dentro. Chiede l'1-2. Insigne. Parte il tiro a rete. Insigne. E terzo gradino per Miralem Pjanic. Pjanic. Serie A. Marcos Alonso che salta secco Perisic, la mette per Kalinic e 3-0 per la Fiorentina che dà spettacolo sul campo della prima in classifica. La partita ha cominciato subito bene e l'abbiamo dato continuità all'inizio e abbiamo avuto un dominio su tutti i momenti di gioco, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Ancora Kalinic, c'è libero Ilicic, area di rigore, di nuovo duello sloveno, ancora palla per Kalinic che sentenzia l'Inter con la tripletta. La Fiorentina, finisce qui la gara di San Siro, c'è un'altra capolista insieme all'Inter. Firenze sogna, sogna Firenze, sopra siede sul presente, la regina è lei, che sotto, sotto, sotto, sotto, sotto. Chiedo ai ragazzi di continuarci sempre a lavorarci per competersi con tutti. Abbiamo le nostre armi, abbiamo le nostre capacità, io credo senza limiti, con ambizione, con molto coraggio di affrontare tutti i nostri avversari, c'è cioè per averci solo un pensiero, vincere. Benedetto Ferrara da Repubblica, ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ho potuto mettere i gol di Kalinic tra i più belli della giornata, certamente sono stati tra i più importanti. Continuo a ripetere, a me Kalinic piace un sacco, mi sembra un super giocatore, non so cosa ne pensa la nonna. Sì, sì, sì, l'aveva scambiato per Gomez e poi quando ha visto i tre gol ha capito che non poteva essere. Ho visto essere quel Gomez. Video. Non è... No. Gomez normalmente stava in infermeria, questo sta in campo. Sì, sì, no, ma ora al di là dei paragoni, sono ingenerosi, ma questo giocatore che anche prima di entrare, diciamo, in palla con il gol, è un giocatore che aveva fatto vedere di essere un centravanti capace di muovere dei movimenti giusti, di dialogare con gli uomini tra le linee, di essere pronto sui cross, insomma un giocatore che a Firenze mancava da un pezzo. Sì. Quindi poi questi tre gol ovviamente lo sparano in cielo, insomma è un idolo oggi a Firenze ed è sotto gli occhi di tutti. Buffa l'idea che un giocatore costato 5 milioni e mezzo rispetto a quello che guadagna un quarto di Gomez, insomma abbia già segnato i gol di Gomez. Sì. In sei giornate c'è i gol che Gomez ha segnato. Senza fare paralleli e paragoni che sono sempre generosi, però questi sono numeri. Kalinic, ecco. No, ma sai Enrico Chiesa, che tu penso ti ricordi, no? Hai visto come che no? c'era pure lui in quella stagione 98-99 insieme a Batistuta, che poi si scavigliò in maniera terrificante, in cui la Fiorentina per l'ultima volta si arrampicò con trapattoni in testa alla classifica. Ma c'è aria di sogno a Firenze? Firenze sogna, sì, come dice la canzone, in questo momento, perché sognare in fondo non costa nulla, Sì, ricordiamo anche che in quella stagione poi Batistuta si infortunò e Edmundo andò al Carnevale. Sì, ricordo bene. No, un trapattone diceva, ma per favore stai qui a giocare, no, devo andare al Carnevale di Rio, che ho i miei impegni, devo andare. Esatto, perché l'aveva scritto sul contratto. Sì. Ed è giusto ricordarlo così un po'. Però, detto questo, sognare. Firenze sta godendo questo momento, perché dopo 17 anni essere in testa alla classifica è bello, poi cioè è meraviglioso in realtà. Poi ci sono delle cose comunque buffe in questa stagione, cioè, la Fiorentina ha vissuto un po' una storia strana, un po' come la metamorfosi di questo campionato, no? Sì, sì. Che comunque è abbastanza curioso. La Fiorentina ha avuto un'estate difficile, giocatori scappati, penso appunto a Salah, penso a Joaquin. Un giocatore venduti all'improvviso all'aeroporto come Savic, sì, mentre stava partendo per la tournée, e Sosa è riuscito nel suo modo zen di, come dire, dire poche parole giuste, sempre ottimiste, mai qualche battuta l'ha fatta, ma senza perdere il senso della realtà, e ha costruito una squadra con quello che ha, come dice lui, uno fa le frittate con le uova che ha, no? E non ce l'aveva proprio buonissime, diciamo. Beh, però abbastanza adatte al suo modo di giocare, eh? Esatto, ha costruito questa squadra paragonata a quella dei Trapattoni, perché è una squadra che concede pochissimo, e questa è la realtà, è una squadra che concede poco e che poi però vince le partite anche in cui gioca male, e questo era un po' un segno, e chiaramente ha attirato un po' di critiche, per questo essere i primi suona, come dire, nessuno se l'aspettava, perché la Fiorentina ha giocato qualche partita oggettivamente brutta, anche perché eravamo abituati al calcio di Montella, sì. E qui, come è successo a Milano, si è aperto il dibattito, no? Meglio vincere giocando male che... Meglio vincere, Benedetto, tu lo sai. Sì, e io credo, no, credo che Sosa ha risposto ieri una battuta, secondo me, che chiude il dibattito, e dice che una squadra che perde ha giocato male. Sì, sì. Beh, e questo vale anche per quello. Un per po' filosofo, che... un po' guru, eh. Un po' filosofo, sì. Un po' guru, un po' santone in questo momento, Paolo Sosa. Beh, ma sai, io credo che l'abilità, cioè Sosa è un uomo che ha studiato varie discipline, tra cui la motivazione, no? Ha studiato anche gestione aziendale, per cui è un uomo che quando deve parlare di conti sa con i dirigenti, sa di cosa parla, no? Di business plan, di tutto ciò, sì, che sì, è chiaro, di comunque gestione del club, sì, sì. Sì. E quindi è avanti da questo punto di vista, e lui ha detto anche un'altra cosa che spiega molto di questa Fiorentina, e cioè che lui dice che le critiche vanno usate per migliorarsi, cioè lui ha fatto leva evidentemente su l'orgoglio, lo spirito di gruppo del suo spogliatoio, anche usando, voglio dire, anche usando le critiche che sono state fatte. In questo mi ricorda un altro portoghese di cui non, brizzolato, di cui non ti faccio il nome, ma se lo ricordano tutti. Benedetto, grazie, in bocca al lupo, ci sentiamo prestissimo, io credo, perché la Fiorentina mi sembra solo all'inizio del volo. Monica da Reggio Emilia, chiedo scusa, chiedo venia, non riusciamo a parlare perché sennò ci tagliano fuori dall'etere, ci chiudono i microfoni. Ringrazio solo Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Noi ci sentiamo domani alle 2. Ciao! È finita! È finita!